Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Papà è in rimonta, ma guida in modo strano. È tutto storto, con la gamba destra protesa come ad affondare nel radiatore. Ad ogni giro ne capiamo sempre meno, ma dietro di lui di avversari ce ne sono sempre di più. Mi chiamo Enrico, vivo a Verona da 33 anni. Di lavoro faccio l'art director. Una moglie, Laura. Una passione, le corse. Questa è un'ora alle 16:09 in punto, è un'ora durante la quale molti degli ascoltatori, non tutti ovviamente, però molte delle persone che ascoltano la radio e quindi questo programma in questa fascia oraria, sono in automobile facendo diverse cose e tra le altre sono andate a prendere i propri figli che escono dall'asilo o da scuola o li stanno accompagnando a fare qualche attività, il nuoto, la danza, il basket, insomma sono in auto con dei figli, quindi sono dei genitori sostanzialmente, sono delle mamme o sono dei papà. Magari lo stanno diventando e sono in macchina semplicemente perché stanno facendo i fatti loro. Ecco, oggi un pochettino rivolta a loro questa puntata, a tutti quelli che sono genitori e che lo diventeranno. Se sei una mamma e se sei un papà, prova ad immaginare una situazione difficile, una situazione di tensione, o magari una situazione agonistica di vera e propria gara, e cerca di immaginare qual è la vittoria, la sfida con cui vorresti che tuo figlio si ricordi di te in futuro. Qual è quella cosa che riesci a vincere o che riesci a superare, quello sforzo che riesci a fare, che in futuro tuo figlio dirà: però mio papà quella volta quella cosa lì l'ha portata a termine, mia mamma alla fine ce l'ha fatta e in qualche modo ha vinto e quella cosa se l'è portata a casa. 349-238-6666. Oggi parliamo di quello e raccontiamo di quello grazie alla storia ovviamente di Enrico, come facciamo tutti i giorni. Attraverso una storia personale raccontiamo un po' la storia di tutti quelli che hanno voglia di condividerlo. 349-238-6666 è il numero per mandare gli sms, appunto la vittoria con cui vorreste essere ricordati da vostro figlio, non per forza la morte, anche da vivi, oppure voi siete qui Radio 24 o voi siete qui R24. Il profilo Twitter. Io mi ricordo una volta mi trovavo in una stazione abbastanza difficile in barcavela con un istruttore anziano, eravamo 5 allievi e lui effettivamente era un po' una specie di papà, nel senso che gestiva lui la situazione. Erano le bocche di Bonifacio, c'era un bel po' di vento, c'era un bel po' di onda e la sensazione era che tutti guardavamo lui. Se lui al timone era tranquillo, noi eravamo tranquilli. Non ha detto mai una parola, ma aveva sempre l'aria di chi aveva tutto sotto controllo. E quella era un modo per vincere una sfida. Io lui me lo ricordo in questo modo. Vi parlo di lui e vi parlo delle bocche di Bonifacio e della barca a vela non a caso, perché oggi abbiamo ufficialmente la possibilità di lanciare quella che sarà una sorta di live, un live di Voi Siete Qui, che voi conoscete di solito, facciamo qui alla sede del Sole 24 Ore, di solito a giugno. Ebbene, quest'anno ne facciamo anche uno speciale e forse chissà quanti altri, ma uno speciale di sicuro sarà a Genova in occasione del Salone Nautico che si tiene nei primi giorni di ottobre e noi esattamente domenica 5 ottobre alle 17 siamo là a raccontare storie di mare che stiamo già raccogliendo a Voi Siete Qui @radio24.it. Potete iscrivervi gratuitamente come sempre, ci sono 150 posti disponibili, a breve il form sarà disponibile online, probabilmente già da stasera. Andate sul sito radio24.it, è la solita cosa, vi iscrivete e potete accedere gratuitamente, attenzione, non solo al nostro spettacolo, non solo al live di domenica 5 ottobre alle 17, ma per quel giorno all'intero Salone Nautico gratuitamente, grazie a Radio 24 e grazie in qualche modo a Voi Siete Qui. Quindi se avete voglia di vedere un po' di barche e soprattutto di sentire storie di mare come al solito raccolte dai nostri ascoltatori, andate sul nostro sito Radio 24 e iscrivetevi, ripeto, domenica 5 ottobre al Salone Nautico di Genova alle 17, noi siamo lì. Adesso torniamo qui, invece giuro che non volevo farlo, Gianmarco, quella roba del lì e del qui, ti chiedo scusa, però fai come se non l'avessi sentito. Gianmarco Ferronato ogni tanto è con noi e si stupisce giustamente un po' anche lui. 349-238-6666, il Salone Nautico è il 5 di ottobre, ma noi siamo qui con la storia di Enrico. Avevo 7 anni ed ero attirato particolarmente dall'odore dell'olio dei freni e da quello dei pneumatici impilati. Quindi per me stare nel paddock di un circuito era meglio che girare sulle giostre di Gardaland. Guardavo, toccavo, annusavo e soprattutto ascoltavo i grandi. E il grande per eccellenza per me, ovviamente, era mio padre. Uomo determinato, una passione estrema per la tecnica dell'automobile e un signor piede destro. Quel giorno mio padre diventò il mio eroe. Quel giorno era in programma la gara di N1 del campionato italiano velocità turismo, noto come CIVT o CIVITI. Uno sciame di Ford Sierra Cosworth si sfidava nel toboga parmense. Mio padre non era un abitué di quella gara. In mezzo a vecchi marpioni e giovani rampanti fordisti, papà Claudio si destreggiava con esiti di cronometro discreti, ma non esaltanti. E davanti poi c'era l'agile BMW M3 di Galluzzo, sorprendentemente abile nel tenersi dietro tutte le muscolose Sierra. Appunto, Sierra ed M3, le auto che hanno segnato la mia infanzia. Pronti? Via. Da dietro la rete, sopra la curva del ferro di cavallo, vedo solo in lontananza alzarsi un polverone sopra il concerto dei motori. In pochi secondi le macchine piombano alla chicane X. Galluzzo mena le danze con la M3 e dietro decine di Sierra soffiano come bufali. Il babbo naviga guardingo nel mezzo, il circuito è corto e il gruppo inizia a sgranarsi, tanto che in pochi giri si parla già di doppiati. La Ford Sierra non era nostra, era un'auto a noleggio e onestamente adesso non so che fine abbia fatto. Gli adulti assieme a me cominciano a notare che papà è in rimonta ma guida in modo strano. In più nell'abitacolo, che dalla nostra posizione alta vediamo molto bene, è tutto storto, con le spalle innaturalmente asimmetriche e la gamba destra protesa come ad affondare l'acceleratore nel radiatore. Insomma, com'è come non è, a ogni giro ne capiamo sempre meno, ma dietro lui di avversari ce ne sono sempre di più. Il valzer dei doppiaggi non aiuta certo a comprendere la classifica, ma quella Sierra bianco-giallo-verde comincia ad attirare non solo un bambino biondo di 7 anni. Ad un certo punto passa sotto di noi e col braccio destro lo vediamo armeggiare in staccata come se cercasse il telecomando del garage. Devi scalare le marce, penso, fare quella benedetta curva, ed eccola, la completa ma con una traiettoria ubriaca. Dietro però non ne approfittano, dentro di me avverto una leggera ansia, mancano pochi giri e io voglio andare ai box. Portatemi ai box, dico, mi scappa pure la pipì. Devo dire che mi scappa sempre la pipì negli ultimi giri, anche adesso quando guardo la Formula 1 in TV. Arriviamo in zona parco chiuso, ignari degli ultimi passaggi, e proprio mentre lo speaker comunica la classifica finale, vince Luciano Galluzzo su BMW M3 al secondo posto, prima delle Ford Sierra, Claudio Castaldelli. Al diavolo il bagno, portatemi da papà. Ed eccolo lì, eccolo che arresta la macchinona col cofano rovente. Si fanno attorno alcuni colleghi incuriositi, molti non sanno nemmeno chi sia perché non è tra i partecipanti fissi del campionato. Lui tarda a scendere, mi sembra provato. È un omone di oltre un quintale e ora chiede solo un po' d'aria davanti alla portiera aperta, giusto il varco in cui mi infilo. Mio padre da 20 anni non corre più, il suo agonismo lo sfoga nelle bocce e io ho mantenuto la passione per le corse ma non ho mai guidato una macchina in pista. E così lo vedo, incastrato nel sedile sfondato nei primissimi giri. Ha ceduto il supporto destro e ha la leva del cambio in mano. Ha guidato per mezza gara con il culo che galleggiava e cambiando le marce con un moncherino della leva, usando le sole punte delle dita. Il mio eroe pesa come nuvolari e varzi messi insieme e adesso mi guarda con gli occhi sorridenti. Negli anni seguenti non sarà sempre così, ci scontreremo pure. Mi troverò a cercare di nuovo quel suo sguardo senza trovarlo. Quello che conta però è che quel giorno io ero il figlio di un Superman capace di imprese impossibili. E per un bambino non c'è gioia più grande di sentirsi al sicuro. You can be me. And I drink all the time. Cause we love hers. And that is a fact. Yes, we love hers. And then it's the... Gli occhiali, i capelli corti e una polo grigia, Enrico, mentre è scattata la foto che trovate sul nostro sito, e oltre appunto agli occhiali ha un bel riflesso del flash sulle lenti. Pronto Enrico? Pronto, eccomi qua. Ciao, buongiorno, come stai? Molto bene, molto, anche quasi commosso, la mia canzone preferita. Beh, fantastico, abbiamo fatto 2+2. Enrico, esatto. Dove ti trovi in questo momento? Sono davanti a casa mia. Quindi dove più o meno? A Cavaillon Veronese si chiama il paese. Cavaillon Veronese? Sì, in provincia di Verona. Certo, perché tu lavori anche lì, giusto? No, lavoro a 40 50 km verso Vicenza. E mi ricordi che cosa fai? Faccio sono art director in un'agenzia di comunicazione. Sì. Ok, ok. E invece il tuo babbo cosa fa? Mio papà organizza logistica per trasporti. Ok, quindi insomma robe di quattro ruote più o meno, o di più probabilmente. Più, esatto, mega tir. Tu non hai mai messo piede su una macchina da corsa, dicevi? Allora, una volta sì, in pista non l'ho mai guidato, però quando mi sono sposato, sì, un'auto da corsa mi ha portato davanti alla chiesa. No, ok, io... però così non vale. Ma senza sedile, ho seduto sulla lamiera, c'era solo il pilota, il nostro amico, e mi ha portato davanti al sagrato. Ma era un'auto da corsa da pista o da rally? Sì. Da pista, con la roba lì del tuo babbo, insomma. Esatto. Quante gare si è fatto lui? Ah, non lo so, ha corso dal 77 al 95, quindi parecchie. Ma, senti, toglimi una curiosità, perché io avevo uno zio che preparava auto da rally e mi ricordo, insomma, mi ricordo il garage, le macchine, mi ricordo quell'odore di cui parli tu, quello lì dell'olio e dei pneumatici. In quel caso come funziona? Che uno si trova uno sponsor, perché l'affitto dell'automobile costa, giusto? Ha un prezzo anche piuttosto alto. Sì, trovava degli sponsor e poi per il resto dovresti chiedere a mia mamma. Ok. Hai capito dove li prendeva. Sì, direi che forse è meglio non chiedere a tua mamma. Esatto, allora. Esatto. Probabilmente. Ha vinto tanto tuo babbo? Devo dire abbastanza, dai. Tra gli anni 70 e gli anni 80 ha vinto anche 3 campionati italiani in pista e poi insomma ha mollato un po' diradando le corse, però... è sempre stato uno che... cioè comunque dovevi vedertela col Gastaldelli in pista una volta o l'altra. Sì, anche in salita, era anche uno specialista delle salite. Senti, invece mi dici appunto, parlerò di questo rapporto che come spesso succede, no? tra padri e figli è sempre un po' di, a volte di silenzi, a volte di comprensione, a volte di incomprensioni. Com'è il rapporto col tuo babbo adesso? Il rapporto con mio papà è abbastanza complicato, però si è decisamente rasserenato negli ultimi tempi e penso che questa puntata che sta ascoltando, immagino, anzi sono sicuro, gli farà molto piacere, perché la settimana scorsa l'altro mio fratello se n'è partito per l'Australia un anno e quindi il babbo era molto molto mogio. Okay. E oggi magari ha avuto una botta di vita. Senti, corre ancora adesso? No, ha smesso, dicevi? No, come diceva la registrazione, fa le gare di bocce, è sempre agguerritissimo. Ah, ok, comunque roba rotonda che rotola più o meno. Esatto. E cerca di andare più veloce degli... No, le bocce come funziona? Chi va più vicino al pallino, una roba del genere? Più vicino, però lui è uno di quelli che boccia, quindi certo. È lanciata molto forte. Prendi a sportellate le altre bocce. Esatto. Enrico, tu hai figli? No, ancora no. Però immagino che insomma anche tu formalizzerai una sorta di vittoria o di sfida con cui vorresti che lui ti ricordasse in futuro, visto che noi adesso un po' tutti conosciamo quella gara che in qualche modo tuo babbo ha vinto. Non te la ricordi solo più tu. Salutalo tanto, grazie ancora. Davvero, grazie a voi, buona giornata. Ciao Enrico, a presto. Ciao. Che in fondo parlare in termini positivi del proprio padre per un maschio adulto è un po' difficile. Un maschio adulto già di suo fa fatica ad esprimere quello che prova nella vita di tutti i giorni. Quando poi si tratta di parlare del proprio padre, si tende sempre a parlarne poco, male e anche senza trasporto. E io appartengo un po' a questa categoria. Non credo che sia solo colpa nostra, però sono un po' loro i primi a infastidirsi davanti a un gesto o ad una frase appena più affettuosa. Per quieto vivere, allora, di solito attribuiamo ai padri dei meriti che non ci mettono troppo in difficoltà, no? Tipo, mio padre ha il pollice verde, oppure non cucina, però la salsa di pomodoro lui la fa tutti gli anni. Poi mio padre in questo caso non ha un grande spirito competitivo, anzi è come se avesse pudore di farsi vedere nella bagarre, nella battaglia. Ma c'è una foto però precisa che è appesa a casa dei miei che racconta una storia un po' diversa da questa. Su questa foto c'è lui seduto su una vetta molto alta con il Monte Rosa alle spalle. Ha una maglietta gialla, uno zaino blu e sorride. Ha appena raggiunto la vetta del Monte Tagliaferro. Il Tagliaferro è una montagna aguzza, come quelle che disegniamo da bambini, in faccia al massiccio del Monte Rosa, con sentieri a strapombo su tutti e quattro i versanti e con la cima quasi sempre coperta dalle nuvole. In più ha un dislivello dalla partenza di 1800 metri e un sacco di passaggi di quarto o quinto grado di difficoltà ed è considerata come un'escursione difficile dalla comunità alpinistica. Insomma, mio papà decide un giorno di provarci. È una mattina d'estate, insieme ad un amico. Partono all'alba di una giornata splendida e tutto sembra andare per il meglio. Dopo molte ore di salita, quando ormai sono a pochi metri dalla vetta, si fermano a bere un'ultima volta dalla borraccia. E più per abitudine che per necessità si tolgono gli zaini, ma il suo amico, invece di appoggiarlo a terra, gli dà una spinta. E lo zaino cade e comincia a rotolare. L'amico si ricorda di averci la patente e la macchina fotografica dentro e quindi lo rincorre saltando sulle rocce in discesa. Dopo pochi metri, per fortuna, lo zaino si ferma. Così raggiungono la vetta e si scattano quella foto lì, quella che conosco bene. Al momento di scendere, però, l'amico di mio padre si lamenta di un forte dolore alla caviglia, perché prima, saltando tra un sasso e l'altro per recuperare lo zaino, era caduto male, solo che il muscolo caldo, forse l'adrenalina del momento, avevano fatto da anestetico. Ora però, dopo aver raggiunto la cima e con una mezz'ora di riposo dei muscoli, il dolore esplode e non riesce ad appoggiare il piede. Mio papà prende in mano la situazione, riempie la borraccia con della neve di una vecchia valanga e gliela infila dentro la calza per sgonfiare l'ematoma. E piano piano porta giù da una montagna di 2.964 metri un uomo di oltre 90 kg. Durante la discesa, quando l'altro non ce la fa più dal male, mio padre lo prende in giro, gli ripete la frase che c'è scritta in cima, che dice: un giorno forse sarà persino bello rievocare queste cose. Arrivano che è buio, sono stravolti e spaventati entrambi, ma arrivano. Tante volte ci siamo detti in famiglia di togliere quella foto dalla parete. A me però quella foto piace. Mi piace perché mi racconta che quel giorno lì mio papà è stato un eroe. E alla fine, dalla storia di Enrico, ho capito che, primo, la pipì scappa sempre nei momenti meno opportuni. Secondo, la più brutta fra le berline acquista sempre un grande fascino con uno spoiler da gara. Terzo, restare con la leva del cambio in mano non succede solo nei cartoni animati. Quarto, l'odore dell'olio dei freni, le colonne dei pneumatici, cilindri, chicane, sono un po' come il gelato, ai maschi piacciono un po' a tutti. E quinto, sì, costa fatica ammetterlo, ma anche i maschi adulti e rigidi vogliono bene ai loro padri. Cause he gets up in the morning, then he goes to work at 9, then he comes back home at 5:30, gets the same train every time. Cause his world is built on punctuality, it never fails. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. Non so chi mi scrive, dice il saggio: da bambino lo adori, da grande lo contesti, da maturo, se va bene, lo perdoni. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata. Prima però voglio rispondere a quello che mi scrive Matteo: per caso tuo zio Deirelli era di Nibbiola? No, era di Romentino, non c'è più, si chiamava Zonca, però c'è ancora suo figlio Luca che continua a fare macchine Deirelli, che credo anche vincano tanto. Grazie a Paolino Corleone, sta cippa. Grazie a Gianmarco Ferronato, grazie a Margherita Ina e a Tiziano Bonini. Grazie un po' anche alla cippa, ma grazie soprattutto a Enrico. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una macchia e su una mappa. Mi chiamo Elena, vivo a Comazzo, la storia di domani è la mia e parla di una notte speciale su Facebook. Questa è la mia storia e io sono qui.